Mamma, perché da quando è stato ammazzato mio fratello non vuoi avere più rapporti con sua moglie, Piera? Forse perché è diventata testimone di giustizia? Stai zitta, figlia mia. Quella svergognata, facendo la spia, ha portato il disonore nella nostra famiglia. Lei non deve più essere nominata finché sarò in vita. Ma lei vuole giustizia per la morte di Cola, cosa che tu non hai fatto quando questi signori onorati hanno ammazzato il mio povero papà. Figlia snaturata, anche tu vorresti diventare un'infame come tua cognata, senza capire che quei signori onorati, come li chiami tu, non finirebbero mai in carcere per pagare i delitti commessi. E poi non dimenticare che la buon'anima di tuo padre faceva affari con queste persone che dopo la sua morte mi hanno aiutato tanto per far crescere te e tuo fratello. Questa è la cosa più orribile che potessi farci, prenderti la loro elemosina. Ho offeso la memoria di mio padre e oggi quella di mio fratello. Pace all'anima sua. Come ti permetti di parlarmi in questo modo? Forse preferiti facessi la donnaccia per mantenervi e crescervi dignitosamente? Sempre meglio che non prendere i soldi dalle mani di chi ha ucciso mio padre. Sono una donna onorata e rispettata da tutti. Non ti permetterò di buttare fango sulla nostra famiglia, almeno fino a che sarai minorenne. Poi potrai rovinare la tua vita combattendo contro i mulini a vento. Adesso preparati per andare a scuola e non permetterti mai più di parlarmi con disprezzo. E se quei signori non ti piacciono, ti ricordo che il tuo ragazzo fa parte di una di quelle onorate famiglie che tu vorresti combattere. Come mai stai con lui? Sì, piccola Rita, quanto dolore, quanti morti. Ma anche la tua vita può cambiare. La mia è stata rivoluzionata dalla morte. È paradossale. È così. Ehi, amore! Ma com'è che sei così seriosa oggi? Scusa, ho già fatto una domanda stupida. È certo che lo sei con tutto quel fango che sta gettando tua cognata al paese. Anche tu, come tutti, condanni il desiderio di giustizia di mia cognata. Questo è un paese maledetto da Dio e dagli uomini. Ed io non intendo sottomettermi a questa legge, fatta di soprusi e prepotenza. Abbassa la voce, ma cosa stai dicendo? Ma che ti sei messa in testa di fare come a tua cognata Piera? E se così fosse, tu con chi ti schiereresti? Non voglio credere che sia vero quello che si dice in paese. Perché? Chi si dice di mia in paese? Dicono che sei vicino a quelle persone che fanno il bello e il cattivo tempo. Anzi, che te ne vanti tu stesso, è così? Per me è un onore quando quelle persone mi chiamano per qualche lavoretto. La gente mi rispetta, Rita. Così come rispetteranno a te quando ci sposeremo. Se davvero mi ami, devi promettermi di non frequentare mai più nessuno dei signori della mafia. Altrimenti, anche se ti voglio bene, rinuncerò a te, come dovrò rinunciare a mia madre. Io non ti riconosco più. Una volta mi dicevi che i mafiosi sono dei santi scesi in terra. Adesso fai dei discorsi che mettono paura. Che cosa ne penserebbero tutte quelle brave persone che dopo la morte di tuo padre hanno aiutato tua madre a tirare avanti con la famiglia con tanti bei soldini, eh? Anche mio padre faceva parte della comparanza. Non era un uomo d'onore, ma era rispettato da tutti, perché era per la pace. Ma non dire minchiate, Rita! Tuo padre era un pecoraro che rubava le pecore ad altri! Ecco che era! Per questo che l'hanno ammazzato! Vattene! Non voglio più vederti, finché non smetterai di difendere gente che merita il disprezzo di tutti! Muta! Devi stare muta! Disonore della famiglia e di quella santa donna di tua madre. Ti facevano comodo, eh? I soldini che ti davano quei signori onorati. E ora? Sputi nel piatto dove mangi. Povere donne di questa terra martoriata, eppure di questa terra unica speranza. Quando dissi a mio marito che ero incinta, e rispose: finalmente avrò un figlio maschio che seguirà le mie orme. Allora pregai: Gesù mio, fa che questa creatura sia femmina o inaridisci il mio ventre. Regalami una speranza. Mi chiamo Rita Atria e sono venuta a denunciare fatti che mi ha raccontato mio padre prima che fosse ammazzato. Il procuratore Plazzi di Sciacca mi ha mandato da lei. Può ascoltarmi? Lei è minorenne e ci vuole la presenza di sua madre per verbalizzare ciò che è di sua conoscenza. Se mia madre scopre che sono venuta qui, mi ammazza senza darmi la soluzione. È davvero sicura di raccontare tutto quello che sa? Questi fatti luttuosi che stanno accadendo nel suo paese. Non chiedo altro. Torna a casa ora, Piccinetta. Lisa, c'è ancora un momento. Noi qua stiamo. E così Rita torna a casa, con quel segreto, ma sicura di fare la cosa giusta. Era un piccolo paese il nostro, 10.000 anime, pastori, contadini, dove il terremoto aveva portato tanti soldi per la ricostruzione e tanti personaggi pronti ad arraffare ogni appalto, ogni tangente. Un paese posto in cima a un monte, un'oasi di serenità all'apparenza, ma sotto la cenere covava un fuoco potentissimo che avrebbe annientato decine di vite, una faida efferata tra famiglie pronte a sbranarsi per il dominio su questa terra rigogliosa. E la nostra brava gente non aveva saputo reagire, anzi si rivolgeva a quei signori per un lavoro o per risolvere una lite, pregando che non venisse mai il giorno di restituire il favore a quei mamma santissima. Poteva essere bello il nostro paese. Questi signori, un tempo onorati, hanno deciso di portare al mercato della droga nel nostro territorio, senza tenere conto della delibera che vieta questo immondo traffico rovina famiglie. E avevano preparato il nostro assassino con grande cura, un agguato in grande stile, ma dove, grazie a Dio, siamo stati miracolati. Adesso tutte le famiglie delle Percia Pagliara si sono unite con loro nel tentativo di farci scomparire dalla faccia della terra. Picciotte, dobbiamo fare al più presto terra bruciata intorno a loro, in modo che tutti si rendano conto che noi, e solo noi, siamo nel giusto. Ossia, deve decidere cosa fare per quell'infame moglie di Cola, quella piena. Si è messa in testa di collaborare con la procura raccontando minchiate senza senso. Lo sapevo che donne e bambini non si toccano, però il padre di questa ragazza, che non è riuscito a tenere a bada la figlia, merita una lezione, una bella lezione che servirà di insegnamento a quei qua che magari pensano di saltare il fosso infrangendo le regole. Salvatore, il ragazzo di Rita, figlia del defunto Pace, ha raccontato che ultimamente la sua ragazza va facendo discorsi un po' strani. Difende la scelta dalla cognata piena e inoltre si è messa contro la madre, donna onorata e degna di stima pure. È preoccupante. Sono ribellioni mai avvenute nel nostro paese. Mio fratello si sta preoccupando eccessivamente. La madre, come sempre, saprà tenere a freno la lingua di figlia, di Rita. E poi, essendo minorenne, non darà mai consenso alla figlia di rendere dichiarazione a Don Paolo. Esimio procuratore generale del tribunale di Marsala. Cosa inutile. Quando parla di Borsellino, c'è a mettere pane dalla bocca. Quello è un uomo vesto e ha le palle. I nostri governanti sono quasi tutti corrotti e senza scrupoli. Ma lui no, perciò merita il nostro rispetto, anche se ci darà filo da torcere fino alla fine. Mi scusasse, Parrino. Comunque bisogna dire a Salvatore di tenere la piccola Atria sotto controllo, di prometterle il matrimonio non appena diventerà maggiorenne. Vedete che con quella promessa vita, dimenticherà la morte del padre e la morte del fratello. Non si preoccupasse. Vi ricordo che è in cura dallo psichiatra, già l'altro, da quando gli è stato ammazzato il padre. I soldi li diamo noi alla madre. Quindi, avendo problemi mentali, ogni sua testimonianza sarebbe smentita anche da un semplice passacarte. Lo prossimo a morire sarà ammazzato nella piazza del paese, in pieno giorno, in modo che tutti, amici e nemici, capiscono con chi hanno a che fare. Picciotti, ci rivedremo nella prossima riunione e raccomando a tutti di non esporsi. Quella banda di ubriaconi non se ne starà certo con le mani in mano. Quindi, massima prudenza negli spostamenti. Coscienza medica, Parrino. No, no, così, Parrino. Ci rivedremo non appena il maiale sarà cucinato come desiderate voi. A forno, con le patate. E si sapeva che anche questo sarebbe finito con la faccia per terra. Peggio, Magia Santissima. Nagio molto sparato. Sta storia non finisce più. Non ha voluto scappare dal paese, credendo di non essere toccato. Fissa. Ma dopo l'attentato, fatto a quelle persone brave, di cuore, che per fortuna si sono salvate, doveva aspettarsi che sarebbe stato colpito chiunque avesse partecipato a quell'affronto. Certo che è stato proprio fissa. Ecco, bravi, portatevi via stu fissa. Ecco, bravi. Siete un branco di pecore. Questi signori tiranneggiano la nostra comunità e voi vi prostrate ai loro piedi come se fossero idoli da adorare. Mettici pane in bocca. Se non vuoi finire come questo qui, ne ho visto morire di gente per aver detto meno di quello che stai dicendo davanti a tutti. Allora, signorina, oggi niente lezioni. Hanno fatto una bella sorpresa i miei ragazzi, eh? Venendoti a prendere a scuola. Ascolta, Rita. Sei davvero convinta di voler combattere la mafia del tuo paese? Cosa vuol dire la parola mafia? Dottore Borsellino, se avete voglia di prendermi in giro per la mia età, andrò fino a Roma per farmi ascoltare. Da persone che vogliono sapere la verità su quel che sta accadendo nel mio paese. La vice Rita sembra che abbia le idee chiare. Mi pare decisa ad andare avanti. Che si può fare? Ti chiedo scusa, Rita. Dato il tu perché potresti essere mia figlia. Ho voluto stuzzicarti un poco per vedere la tua reazione. E mi è piaciuta. Quindi ti ascolterò. Non appena avrò il consenso di tua madre. Ve l'ho già detto. Mia madre non darà mai il suo consenso. Dice che sono pazza e che mi invento tutto per emulare mia cognata, Piera, moglie del mio defunto fratello, ammazzato come mio padre da personaggi che nominerò nelle mie dichiarazioni. Sappiate che mia madre ostacolerà con tutte le sue forze le mie testimonianze. Non ti devi preoccupare. Parlerò con tua madre. Vedrai che la convincerò a imboccare la strada giusta. In modo da assicurare la giustizia a quei signori che hanno ucciso i vostri familiari. Ma perché intanto non mi interrogate? Per rendervi conto se dico il vero oppure no. Perché? Perché se lo facessi commetterei un reato. Anche io l'urgenza di ascoltarti, arrestare i colpevoli, fermare le stragi nel tuo paese. Dobbiamo fare tutto come prescrive la legge sui minori, così che le nostre coscienze siano serene quando torniamo a casa la sera, capisti? Solo con il tempo capirai, solo con l'acqua ti purificherai, solo con un mantello ti coprirai, ma con il passare dei giorni e delle notti tu, da che cosa e come ti proteggerai? Forse dalle grandi delusioni? Dalle grandi sofferenze, forse dai no della gente, dagli sguardi che ti accusano per ciò che tu ritieni giusto, forse dall'amore puro e sincero che credi di vedere. No, niente ti proteggerà dalle tue paure, niente ti proteggerà da un mondo che non sarà mai tuo. Re dolza, bella, dolce, zuccherata. Ma dove eri finita? Io che credevo che non volevi più parlarmi dopo quella brutta litigata che abbiamo avuto per colpa di tua cognata. Ma che sei ancora arrabbiata con mia? Ma che ti importa degli altri? A me interessa solo il tuo amore, in attesa che diventi maggiorenne, così da poterci sposare, eh? E fare dei bambini, da crescere nel rispetto delle nostre tradizioni. La prima parte del tuo discorso mi è piaciuta. Ti sei perso quando hai parlato del rispetto delle nostre tradizioni. Ti chiedo quali tradizioni secondo te sono da seguire. Quelle belle, che parlano del nostro popolo e lavoratore. O quelle che stabiliscono regole non scritte, dove i giudici sono gente al di fuori dello Stato. Reda, tu con questi discorsi non fai altro che confondermi. Mi vuoi spiegare per una buona volta se ci sono io al centro dei tuoi pensieri o questa tua voglia di vendetta ti ha fatto dimenticare quegli stessi principi che tuo padre seguiva? Mio padre difendeva i deboli dai prepotenti. Non era un assassino come quelli che frequenti tu. E poi io voglio giustizia, non vendetta. Ma la smettiamo di dire minchiate. Io sono stanco di ascoltare alle tue demenzialità. Io comincio a credere a quelle persone che dicono che sei pazza, compresa quella santa donna di Tumaci, che già soffre per la perdita del marito e del figlio e in più deve combattere con te e le tue assurdità ogni santo giorno. Se non rimetti la testa a posto, io sarò costretta a lasciarti. Non ho intenzione di sposarmi con una matta irresponsabile che vuole rovinare definitivamente la propria famiglia. Se è questo che pensi, non abbiamo altro da dirci. Speravo nella tua solidarietà, ma a me sbagliamo. E non credo più nel tuo amore. Tu e i tuoi amici sentirete parlare di me. Dovrete uccidermi per fermarmi. Corri, corri a fare il tuo dovere. Così prenderanno una decisione e chissà. Potresti essere tu il killer che mi ammazzerò. Piangi, piangi, disgraziata. Le lacrime di tua madre contano, Delle lacrime di tua madre nulla ti importa. Delle nostre lacrime non importa nulla a nessuno. Una ragazzina di paese che si possa permettere di combattere contro i signori dell'onorata società senza preoccuparsi di nulla. Il fidanzato si preoccupa e non di far andare in galera padre di famiglia. Ma tanto, delle nostre lacrime, a chi importa? Bossia, vedete che le cose con Reda si sono messe male. E non ne vuole sapere più niente, né di marito, figli, altro. Si è messa in testa che vuole fare all'infame come a sua cognata Piera. Perfino detto che sentiremo parlare di lei. E mia è davvero pazza. Comunque, come ordinato da Bossia, questa notte le mando i picciotti a bussare alla porta. La devono spaventare senza delle minacce. Salvatore, Giase, che te devo dire due parole? Faccio le mani a Bossia. Chiuda la porta, dove è Duzzo? Noi due da sole. Tranquilla, in buone mani, le migliori che ci possano essere, quelle di un benefattore. Devi fidarti degli uomini rispettabili, dei padri, dei mariti. Un padre rispettabile sa quello che deve fare per i suoi figli e le sue figlie. Certo, per i figli farli diventare delinquenti come lui, per le figlie imporre loro un marito. Ma come parli? Sciacquati prima la bocca. Delinquenti? Delinquente chi? Questi uomini onorati ci proteggono, ci trovano lavoro, ci danno la sicurezza che lo Stato canaglia non ci dà. E per una donna, un buon matrimonio è tutto. Io non ho mai sopportato di essere considerata la moglie di, la figlia di, la nuora di. Io le cose voglio farle con le mie forze, io non voglio dire grazie a nessuno. Quanta spocchia, quanta presunzione. Io sono sempre grata a chi ci dà protezione. E ricordati che un uomo d'onore è tale se gli dà onore la sua donna, e sa stare al suo posto, in silenzio, e che sa vivere per la sua famiglia, senza impicciarsi. Dovresti imparare ad avere gratitudine per chi è sempre pronto a tenderti una mano. Ma in cambio di cosa? Un giorno della vita di tuo figlio, magari? Ma come fai a non ribellarti perché tuo figlio non persegua la stessa strada di tuo padre e di tuo nonno? Come fai, tu madre, ad accettare l'idea che tuo figlio sia ucciso, magari dopo aver tolto la vita al figlio di un'altra madre? Purché non muoia da infarto. È questo che ti preoccupa, che non muoia da infame. La vita è dolore. La vita è dolore. Chi è che bussa a quest'ora? Scusatemi, donna Giovanna, se veniamo a disturbarvi così tardi. Abbiamo delle notizie da riportarvi. Vi dispiace aprirci e parlare senza orecchie strane ad ascoltarci? Chi sei? Non ti conosco. A quest'ora tarda non apro a nessuno. Venite domani. A te ti conosco. Che vi manda? Perché state semi nascosti? Donna Giovanna, vi decidete ad aprire invece di farci sentire alle fesserie di vostra vecchia? Non possiamo stare tutta la notte per riferirvi ciò che vi interessa. Sto telefonando ai carabinieri, così anche loro sentiranno la vostra ambasciata di morte. Ah, scappate via! Continui a fidarti di queste persone? E loro stasera volevano ammazzarci per vendicarsi della cantata fatta da mia cognata. Abbiamo un'unica speranza se ci vogliamo salvare: affidarci alle forze dell'ordine e raccontare tutto ciò che sappiamo. Piera non c'entra niente con questo. Dimmi la verità. Sei andata in giro a dire che vuoi raccontare ogni cosa agli sbirri? Mamma, ho fatto di meglio. Sono andata direttamente dal giudice Paolo Borsellino per dirgli che voglio collaborare con la giustizia. Lui parlerà con te per il consenso, essendo minorenne. Poi ci porteranno in un luogo sicuro, dove i signori onorati non ci potranno mandare i picciotti per farci fuori. Non darò mai il consenso per la tua testimonianza. Dirò a tutti che sei pazza, che devo mandarti un manicomio per curare le manie di quel cervello pagato che tieni in testa. Andrò a parlare con Chicconda per farti rinchiudere subito. Nessuno vuole la mia morte. Sei tu che puoi farmi morire di crepacuore. Mamma, io ti amo più della mia stessa vita. E sei rimasta solo tu. Forse ti perderò, ma sappi che niente e nessuno mi fermerà. Neanche la morte. Finché giustizia non sarà fatta. Signora Afia, devo informarla della decisione di sua figlia di raccontare fatti di cui è venuta a conoscenza. In particolare, le mandanti ed esecutori dell'uccisione di suo figlio Cora. Essendo la ragazza minorenne, lei dovrà fermarmi in una liberatoria per poterla interrogare. Sempre davanti a lei e ad un avvocato che sarà nostra premura procurare per assistervi legalmente. Dottore Borsellino, voi siete una brava persona e ho un grande rispetto per il vostro lavoro. Voi siete siciliano come me, conoscete la nostra cultura a fondo, capirete quindi le ragioni del mio rifiuto, facendo in modo di non ascoltare mia figlia e tantomeno le sue invenzioni. E sta solo cercando di imitare sua cognata. E questo va inventandosi tutte quelle cose assurde. Vi prego, vi scongiuro di credere. Capisco la sua situazione, ma lei deve capire la mia nel rispetto della legge. Non voleva arrivare a questo, eh? Ma mi vedo costretto, mio malgrado, a togliere la pace a potestà, prendendo Rita sotto la mia custodia. Le prometto che avrò cura di lei come una figlia. C'è un documento che attesta sin d'ora l'affido. L'avevo chiesto anzitempo al tribunale dei minori. specificando l'importanza delle future testimonianze per Rita, prevedendo il suo eventuale rifiuto e facendo presente soprattutto il pericolo che Rita corre, rimanendo nel suo paese. Mi vedi a più grande, è andata a vivere lontano. Mi vedi? È morto. Vi rendete conto che mi state togliendo l'unica figlia che mi resta? Rita la adora, più di ogni altra cosa al mondo, ma ha fatto la sua scelta. Personalmente soffro per avervi diviso, ma le ricordo che Rita sta mettendo a repentaglio la sua vita. Ed io ho il dovere di proteggerla e allo stesso tempo assicurare la giustizia agli autori delle stragi che si stanno verificando nel suo paese. Allora, non abbiamo più niente da dirci. Sappiate che da questo momento non ho più una figlia. Vieni qua, Cerita. Finché tua madre non capirà la tua scelta, sarò io il tuo riferimento. Quindi se ti fa piacere, oggi sono zio Paolo. Ti aspettano anni difficili, Piccerita. Ma noi abbiamo bisogno di te, come di tua cognata Piera. Le vostre testimonianze porteranno allo scoperto uomini insospettabili. Politici collusi con la mafia. Gente che ha un solo scopo, mettere le mani sul belice. Questi signori che hanno presentato progetti di costruzioni faraoniche di nessuna utilità per le comunità della valle. Denaro. Denaro a profusione. Intanto la gente aspettava le case che non arrivavano. Anni e anni passati dentro baracche fatiscenti coi tetti fatti da amianto. Amianto. Cerogio. Che disastro. Povera terra mia. Maresciallo, qui ci dobbiamo sbrigare a mettere questi mandati di cattura, che qua stanno macellando decine e decine di persone in tutta Italia. È vero che i morti ammazzati sono criminali, ma noi li dobbiamo affidare alla giustizia terrena, non a quella divina. Una faida così violenta in Sicilia non si vedeva dai tempi della prima guerra dei Corleonesi. Capisce? E ti può difendere? Che cosa sia l'onore? Che cosa sia l'offendere? Tu non capisci. Chi ti può aiutare? La forza di questi uomini è grande come il mare. Il nostro mare bello, il nostro piccolo paese, un'oasi di pace. Se non ci fossero contese. Ma tu, questo paese di sole bianca terra, non ami veramente se gli vuoi far la guerra, se condanni i suoi figli, se piangi tanti morti, se laceri il suo ventre, uomini dai rami storti. Povera Rita, piccola, piccola Rita, hai ragione ad avere paura, non sai cosa ti aspetta. Non potrai dire il tuo nome, né dove vivi. Testimone di giustizia, non sarai più nessuno, sarai sola. Io lo so. Non potrai dire se quando esci di casa all'orizzonte vedi le montagne o il mare. Smetterai di salutare i vicini perché saprai che saranno diversi ogni 3 mesi. E perché dire buongiorno a qualcuno che ti sorride se sai che non lo rivedrai più? Ogni 3 mesi una casa diversa, un quartiere diverso, volti sconosciuti intorno a te. E quali avrai sempre paura di vedere il volto di un nemico. Qualcuno che ti ha riconosciuta, qualcuno che magari... magari ti può anche uccidere. Questo ti aspetta, bambina mia. Lo sai come alcuni dipendenti dello Stato chiamano le persone come te? Cancri, sì, cancri. Perché di chi si ribella alla mafia non ci si libera più. Sarai un cancro per alcuni uomini dello Stato e un cancro per l'onorata società. Ma tu resisti, amica mia, e sarai luce per il mondo. Immagina tante gocce che unite diventano un torrente, che si trasforma in un fiume, che sfocia in un lago, in un mare. Ecco, noi siamo quelle gocce, e un giorno con fiducia diventeremo un lago, un mare. Adesso dormi, bambino mio. Chiudi il tuo diario e riposa. Quanto prezioso sarà questo tuo diario, Rita mia? Tu non lo sai. Illustrissimo procuratore della Repubblica di Marsala, vi prego, con cuore di mamma, di darmi notizie di mia figlia. Me l'hanno buttata via. Lei ha solo 17 anni e io non so quello che le succede. Io sono moltissimo preoccupata. Sta bene o sta male? Perché lei soffre pure dei malori. Io non ho notizie da nessuno, che in verità se ne fregano di me, perché sono una donna sola, perché sono andati tutti all'altro mondo. Mi figlia è stata coinvolta dalle telefonate di mia nuora Piera. Lei telefonava, diceva due parole con me e poi voleva sempre parlare con Rita. Io piango e piango. Mia figlia ha perso il padre e io l'ho cresciuta con amore di madre e di padre e tutto quello che potevo. Magari non possiamo dare tante carezze, ma nel nostro cuore di mamma c'è tanto e tanto amore che non si può mai descrivere, perché è infinito. Ecco, così ti scrivo, anche se non sono tanto brava a scrivere. Ma scalzoni che mi stanno rovinando mia figlia per sempre. Perdonatemi, donna Giovanna, ma vostra figlia è pazza. Cosa ne può sapere sulla mafia? Una ragazzina di 17 anni che non esce mai di casa. E vostro marito non era un mafioso, era un bravo cristiano che non ha mai fatto del male a nessuno. Mafiosi non sanno di che parlano. Voi dovete fare denuncia per sottrazione di minore contro Porzellino e i suoi carabinieri. Questo dovete fare. C'è mia nuora dietro tutti questi racconti, queste fesserie. E mia figlia va riempita di botte per tutte le storie che si è inventata. E me la devono ridare. E sta svergognando anche voi. Una donna rispettata da tutti. E so che anche altre donne hanno raccontato fandonie ai carabinieri. Ma che li prenda queste? Che svergognare il nostro paese piccolo e ciampillo. Ma Giovanna Cannova ha scelto il suo paese per sempre. E se Rita resta altrove, le nostre strade si separano per sempre. Sfuggiti pezzi grossi. La sua metà talpa gli ha informati. E adesso sarà ancora più pericoloso. Lo so, maresciallo, eravamo in pochi a sapere. Ma secondo me, quelli hanno informatori anche in procura. Sanno, certo. Alcune donne del paese hanno parlato, ma io non temo per loro. Lo sappiamo, no? La mafia non tocca donne e bambini. So che invece si vendicheranno sugli uomini per farli trattare in aula tutti i testimoni. E avranno anche l'appoggio di chi li deve dei favori e che reputerà senz'altro un onore finire in carcere per proteggere Mamma Santissima. Le loro mogli cammineranno per il paese a testa alta, riveriti dai compaesani invece di vergognarsene. Io non so se le cose cambieranno mai nella nostra isola, e se la gente onesta avrà il coraggio di ribellarsi. Una mentalità così radicale, così maledetta. Giovanni dice sempre, è tutto un inizio e una fine. Ed io credo a lui. Dobbiamo crederci noi, perché ci credono i giovani che costruiranno il mondo. Zio Paolo, finalmente sei venuto. Pensavo ti fossi scordato di me. Posso dimenticarmi della mia coraggiosa vicinita che ha mollato tutto per amore di giustizia? Almeno una telefonata avresti potuto farmela, dopo tutti quegli arresti compiuti grazie anche alle mie dichiarazioni. Sebbene, Rita, e dobbiamo essere cauti. Gli uomini di chi tu sai potrebbero cercarti, visto come è stata smantellata la loro cosca. Ora, poiché i loro capi sono uccelli di bosco, non sono da sottovalutare. Vedi che abbiamo arrestato anche Salvatore, il tuo ragazzo, mi dispiace. Senti, Rita, quando si farà il processo, aspettati domande particolari molto intime da parte della difesa. Cercheranno di buttare fango su tuo padre e su tuo fratello, per svalutare le tue dichiarazioni. Ma tu sarai con me? Io non avrò timore di rispondere a tono alle loro calunnie. Mio padre non era quella persona che credevo. Purtroppo ormai l'ho capito. Ma questo non mi farà fare nessun passo indietro sulla mia decisione. Tua madre ed altri testimoni chiamati dalla difesa diranno che tuo padre era tenutario di una casa d'appuntamenti e quindi non poteva essere un uomo d'onore. E sempre tua madre confesserà che per far smettere quella vergogna disonorevole presentata a quella casa d'appuntamenti e compare provocatorio si è spogliata davanti ad alcuni clienti dicendo che così contribuiva al mantenimento della famiglia, provocando un grosso scandalo nel paese. Non sapevo di questa storia. Non posso credere che mio padre fosse caduto così in basso. Purtroppo altre persone lo confermeranno. Te ne parlo per prepararti psicologicamente al fango che riverseranno su tuo padre e anche su tuo fratello Cole, essendo provato che faceva uso di droghe. Mio padre è sempre stato un mito per me e io lo amo ancora, ma vorrei che altri ragazzi come me aprissero gli occhi per rendersi conto che questi miti sono creati da una cultura fondata sulla violenza, sui ricatti, sulle prepotenze velate. Nessuno di questi signori è nel giusto, compreso mio padre. Che sei una vicirida in gamba. Spero solo non ti manchi nulla in questa specie di reclusione. Mi raccomando, devi continuare a studiare per il diploma alberghiero. Abbiamo già preso accordi con l'istituto per farti fare l'esame d'esterna. Voglio che ti impegni e che dai tante soddisfazioni allo zio Paolo. Grazie, non mi manca nulla. Tutti qui mi trattano bene. Sento solo molto la mancanza di mia madre. Vorrei poterci parlare anche solo per telefono. Si può fare? Siamo sicure, Rita? Che abbiamo arrestato tutta quella gente con le tue dichiarazioni e quelle di Piera. Non importa, almeno sentirò la sua voce. Maresciallo, facciamo uno shop alla regola usando il telefono protetto. Pronto, mamma? Non ti prego, non chiudere. Fammi parlare. Mi manchi tanto. Accetta di incontrarci e parlare un momento. Ti prego. È già persa. Peggia senza sentimenti. Come ti senti nel sapere tanta gente onorata in carcere? Tante magie senza vidi in casa. Con loro hai fatto arrestare anche me. Vivo reclusa e sola in questa casa diventata troppo grande. Vorrei scomparire dalla faccia della terra per non dover sentire i sussurri della gente quelle poche volte che sono costretta a uscire di casa. Mamma, tu credi che la mia scelta sia sbagliata? Che queste persone che fanno il loro dovere, rischiando la vita, siano intorno, ma ma sai, come tutti, che la nostra isola è schiavizzata da individui che non vogliono il benessere della nostra gente e che ci vogliono ignoranti per tenerci sottomessi alle loro regole. Ma queste regole non fanno morire di fame nessuno. Sono loro che ci danno lavoro e ci offrono denaro quando siamo in difficoltà. Loro sono i benefattori e noi dobbiamo essere eternamente grati a queste brave persone. Ancora credi che la mafia sia quella di un tempo? Quella che combatteva gli invasori? Quando questa parola era una sigla inventata per combattere i francesi? Adesso significa terrore e morte. Hanno ragione gli anziani quando dicono di mandare i figli a lavorare. Picchi studiando, vi mettete in testa di cambiare il mondo. Vuoi vedermi? Allora ritratta tutte le accuse che hai fatto contro questa gente. Solo così riavrai tua madre. Altrimenti, Pimmea, continuerai a essere morta come tuo padre e tuo fratello. A loro non faccio mancare le mie preghiere. Pittia, solo maledizioni quando sarai nei miei pensieri. Pittia! Piccirita! Piccirita disgraziata! Te la faranno pagare! Te la faranno pagare! Ho ricevuto una lettera dall'infame che ci ha fatto arrestare. Dice che mi ama ancora e che mi pensa notte e giorno. Ha scritto pure che se mi rimetto con lei, al processo dirà che non c'entro niente e che l'ha fatto per gelosia. La scrittura è la sua, la riconosco. Prima ti manda un calcio e poi ti scrive una lettera d'amore. Ma certo che te pensa che se non gli manca il bastone di Totuccio suo, la verità è e sta lettera la potevo mostrare al giudice di smentire tutte le sue dichiarazioni. Certo, si è detto Faria qualcosa di diverso nel tribunale. Non ti preoccupare, a Giappone siamo usciti sempre puliti da tutte le accuse dei PM, nipoti miei. Le cose non cambiano. La Sicilia, un tempo della riconquista, oggi appartiene a Novace. Lo Stato deve scendere sempre a patti con noi. Sono poi scadere la guerra. Nella busta c'era pure una poesia. Certo che lei ha la mania per le poesie. Sa perché l'amore non basta mai. Sa perché il mare a volte è così azzurro e tranquillo. Altre volte invece fa alzare le sue acque fino a farle gridare, urlare, come fossero un richiamo. Come se così esprimesse tutta la sua ira, il suo dolore. Basta solo parlargli, dolcemente. Per la prima volta sarà lui ad ascoltarti. Quando avrà sentito ciò che gli vuoi dire, ti farà cullare sulle sue onde calme, ti porterà nei suoi abissi più profondi, ti farà conoscere le sue bellezze più nascoste, fino a quando sarai talmente incantata da quel mondo che sarai proprio tu a chiedergli di poterci abitare. Per il momento la nostra faida si deve fermare e fino a nuovo ordine si dovranno evitare omicidi. Qualcosa di grosso bolle in pendolo. I nostri politici a Roma stanno facendo il gioco delle tre carte. Dopo aver mangiato e preso voti per i loro sporchi interessi, hanno a capire che comanda in Sicilia. E se fino ad oggi non ci sentono, lo sentiranno. Lo sentiranno con tutta la musica. Per quanto riguarda la piccirilla, il Retuzza, stiamo pensando al fatto che lei era ancora psichiatrica. Ma per il momento non siamo riusciti a recuperare la documentazione. Pare che qualcuno l'abbia volutamente fatta sparire. E poi non potevamo ammazzare un suo parente, perché questo potrebbe danneggiare un processo alle picciotte. Comunque, state tranquilli e sentitelo telegiornale. Chi comanda? Lo sentiranno con tutta la musica. Siamo servitori dello Stato e non possiamo metterci allo stesso livello di questi criminali. Noi sappiamo i rischi che corriamo giornalmente, ma il nostro dovere è di assicurare questi assassini alla giustizia nel rispetto della legge. So che dovrò fare presto. Il prossimo sarò io. Giovanni non è fuggito. Non si è turbato alle minacce. È stato sempre pronto a rispondere con la speranza. E perché? Per amore. Per amore della sua città e di questa terra che lo ha generato. Giovanni è morto per noi e noi abbiamo un grosso debito verso di lui che dobbiamo pagare gioiosamente. Accettiamo in pieno la sua gravosa e bellissima eredità. Grazie a tutti voi. E adesso al lavoro. Il giudice Falcone ha messo una grande tristezza nel mio cuore e ho tanta paura che possa accadere qualcosa di brutto allo zio Paolo. Ora è da solo a combattere quei mostri che colpiscono nell'ombra per poi scivolare via viscidi e silenziosi. E che farei qui da sola? Me ne sto rintanata in questa casa, protetta da poveri ragazzi come me che prendono 2 lire, hanno auto scassate, spesso senza benzina, e che potrebbero morire domani. E poi, funerali solenni, una piccola pensione alla moglie. Ecco chi sono i veri eroi. Me ne sto nascosta qui sotto un altro nome, poi mi porteranno in un altro luogo e avrò ancora un altro nome. Per quanto ancora? Non ho più una famiglia, non ho più una madre, non ho più un amico. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno prova a cambiare, forse ce la faremo. Sai, io nella vita ho avuto poche stelle e me le hanno spente. Mio padre, mio fratello, le stelle del mio cielo non le ho più. Ora la mia nuova stella è zio Paolo. Non potrei sopportare che si spegnesse. Devo chiederti una cosa, che certamente penserai insensata, ma sono sicura che capirà il perché di questo mio desiderio. E c'è? Devo divertire un poco, eh? Vai andare in discoteca. Non ce la fai a stare chiusa da sola, ti capisco. È una richiesta capricciosa. In questo momento particolare per te, dopo la morte del tuo amico più caro, ma devi promettermi di esaudire questo mio desiderio per farmi dare un contributo tangibile. Voglio andare nel corso principale della mia cittadina e percorrerlo tutto, fino sotto casa mia. Questo deve avvenire di giorno, quando il corso è pieno di gente. Questa è la mia sfida e tu me la devi concedere per dimostrare a tutti che la mafia si combatte allo scoperto. È una pazzia. Ma come tale può funzionare? Nessuno si aspetta una mossa del genere. Giocheremo sul fattore sorpresa e lasceremo di stucco tutti i tuoi paesani. E lasceremo un messaggio chiaro ai latitanti e a quelli in carcere. Organizzeremo tutto. Piccola Rita ha un vestito grazioso e tiene tra le mani una piccola borsa. Guarda con ammirazione la facciata della chiesa madre, dove ogni domenica seguiva la santa messa. Gli agenti si aprono a ventaglio e lei si incammina sola davanti a tutti per quel corso che un tempo percorreva nei giorni di festa con le sue amiche o con il suo ragazzo. Cammina lentamente, guardando davanti a sé. Avendola riconosciuta, la gente si scansa. Le serrande dei negozi si abbassano, come quando passa un carro funebre. Lei cammina e le finestre si chiudono. Le mamme richiamano frettolosamente i loro figli. La strada, che poco prima brulicava di gente, si va svuotando rapidamente. Persino il matterello del paese, avendola vista, si allontana bofonchiando chissà cosa tra sé. Ora la strada sembra diventata interminabile, ma Rita non si ferma. Sa che in fondo troverà la facciata di casa sua, la porta di casa, la finestrella dove un tempo si affacciava per veder passare il suo ragazzo. Cosa pensa Rita dei suoi compaesani, che sono dei vigliacchi? O semplicemente che temono per la sicurezza delle loro famiglie, per questo si barricano in casa in attesa che passi quel temporale inaspettato riversatosi sul paese. A Rita piace pensare che nel cuore dei suoi concittadini ci siano amore e rispetto per lei. Sarà così. Mamma, sono qui. Apri la finestra. Mamma, sono qui. Ecco, brava, portala via. Ma come hanno potuto permettere a questa ragazzina di fare una cosa del genere? Dove sono i nostri uomini? Nessuno protesta? Nessuno si sente offeso? Sembra starvi simpatica, questa matta rovina famiglie. Donna Giovanna, ieri in casa mia ho sentito mio marito parlare con degli uomini importanti e sapete che dicevano? Questa ragazzina non ci fa una buona pubblicità. La gente ironizza su di noi e la sfida che ci lancia. Però bisogna ammettere che ha le palle e il giudice deve averlo capito prima di noi. E un altro, bruciamoli la casa in campagna in modo da lanciare un messaggio sia al giudice che ai nostri compaesani per ricordargli chi è che detta le regole. E un'altra ancora, no, non possiamo far rumore, lo sai, dobbiamo fermarci. È stato sbagliato attaccare le istituzioni. Finché ci ammazziamo tra di noi va bene, ma se attacchiamo le istituzioni alla lunga faranno leggi repressive e la battaglia allora si farà dura assai. Questo dicevano donna Giovanna, ed erano uomini importanti davvero, onorati e rispettabili. Io non vi ho detto nulla, donna Giovanna, ma sappiate che la pazienza ha un termine e dopo non potrà difendervi più nessuno. Fate rinsavire vostra figlia, con le buone o con le cattive. Ma non vi piange il cuore nel sapere che alcuni padri di famiglia sono stati arrestati e che i figli sono costretti ad andarli a trovare in galera? Il mio cuore piange per molte ragioni. Io non ho più una figlia. Ma se tu, se io, avessimo raccontato tutto, tutto quello che sappiamo e abbiamo sempre saputo, mio marito sarebbe ancora vivo e mia figlia andrebbe a trovarlo in carcere anziché a cimitero. Nel nome del popolo italiano, questa corte assolve per non aver commesso il fatto Salvatore Marciano, condanna per associazione mafiosa Francesco Rauli, Giuseppe Spaduzza, Carlo Palmieri. L'avevo detto io, innocente, innocente sono, pulito. Avete sentito, donna Giovanna? Il fidanzato di vostra figlia, quel bravo Cristiano, è stato assolto, non ha commesso il fatto. Vero è. Non ha commesso il fatto. Abbiamo vinto. È Salvatore libero. Non ancora. Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra. Ma non era mai successo. Adesso saranno avvelenati. E potrebbero fare del male anche a mia madre. Non ti devi preoccupare, tua madre. Con il suo atteggiamento intransigente verso la tua testimonianza, è onorata e rispettata da tutto il paese. Poi non penso che vogliono fare altri casini. Se ne staranno buoni finché i processi non saranno definitivi. Adesso che sei a Palermo, però, zio Paolo, devi promettermi di essere prudente. Che vai a pensare? Ormai hanno capito che devono solo leccarsi le ferite e sperare che non gli caschi in testa un'altra tempesta piena di condanni e arresti dei cosiddetti colletti bianchi. Grazie, piccirita. Siciliani onesti sono grati davvero. E quelli disonesti un po' meno. Ma vedo che sono arrivati due angeli custodi. Devi andare. E sono arrivati anche i miei. Dove vi nasconderete questa volta? E come mi chiamerò? Paolo, non ce l'hai fatta più. Anche la tua ultima stella si è spenta. Mi dicevi, Piera, al mio funerale voglio pochi amici, solo quelli che mi vogliono veramente bene. E poi pochi fiori, solo un cuore di rose rosse con un giglio bianco in mezzo. E poi voglio essere sepolta con pantaloni neri, giacca nera, camicia bianca e papillon rosso. Sarò elegantissima. Al tuo funerale i tuoi compaesani non c'erano, né tua madre. Quando mi dissero che ti eri gettata dalla finestra di casa tua e mi portarono a vederti su quella lastra di marmo con solo un lenzuolo addosso, eri bellissima. Sembravi dormire. Un'espressione serena che non ti vedevo più da tanto tempo. Volevi essere il vento. Ora lo sei. E spirerai sul mondo per squarciarne le nubi scure e volteggerai intorno a me per darmi la forza di resistere.